Vangelo di Marco, capitolo terzo. Poi entrò di nuovo in una sinagoga, e quivi era un uomo che aveva la mano secca, e lo osservavano per vedere se lo guarirebbe in giorno di sabato per poterlo accusare. Ed egli disse all'uomo che aveva la mano secca, «Levati là nel mezzo!» Poi disse loro, «È egli lecito in giorno di sabato di fare del bene o di fare del male, di salvare una persona o di ucciderla?» Ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardateli tutt'intorno con indignazione, contristato per l'indurimento del cuor loro, disse all'uomo, «Stendi la mano!» Ed egli la stese, e la mano tornò sana. E dei farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui, con lo scopo di farlo morire. Poi Gesù coi suoi discepoli si ritirò verso il mare, e dalla Galilea gran moltitudine lo seguì, e dalla Giudea, e da Gerusalemme, e dalla Idumea, e da oltre il Giordano, e dai dintorni di Tiro e Sidone, una gran folla, udendo quante cose egli facea, venne a lui, ed egli disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barchetta a motivo della calca che talora non la affollasse, perché egli ne aveva guariti molti, cosicché tutti quelli che avevano qualche flagello gli si precipitavano addosso per toccarlo. Ed egli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gittavano davanti a lui e gridavano, «Tu sei il figliuolo di Dio!» Ed egli li sgridava forte affinché non facessero conoscere chi egli era. Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quei che gli stavano seco, ed essi andarono a lui, e ne costituì 12 per tenerli con sé e per mandarli a predicare con la potestà di cacciare i demoni. Costituì dunque i 12, cioè Simone, al quale mise nome Pietro, Giacomo di Zebedeo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali pose nome Boanerges, che vuol dire figliuoli del tuono, e Andrea e Filippo e Bartolomeo, e Matteo e Toma e Giacomo di Alfeo e Taddeo e Simone il Canneo, e Giuda Iscariot, quello che poi lo tradì. Poi entrò in casa, e la moltitudine si radunò di nuovo, talché egli ed i suoi non potevano neppure prender cibo. Or i suoi parenti, udito ciò, vennero per impadronirsi di lui, perché dicevano, è fuori di sé. E gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano, egli ha Beelzebub, ed è per l'aiuto del principe dei demoni che i caccia i demoni. Ma egli, chiamateli a sé, diceva loro in parabole, come può Satana cacciare Satana? E se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. E se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. E se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire. Ed anzi, niuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie se prima non abbia legato l'uomo forte. Allora soltanto gli prenderà la casa. In verità io vi dico, ai figliuoli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita. Ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha rimissione in eterno, ma è reo d'un peccato eterno. Or egli parlava così perché dicevano a uno spirito immondo. E giunsero sua madre e i suoi fratelli, e fermatisi fuori lo mandarono a chiamare. Una moltitudine gli stava seduta intorno quando egli fu detto, «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle là fuori ti cercano». Ed egli rispose loro, «Chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli?» E guardateli in giro coloro che gli sedevano d'intorno, disse, «Ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatta la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre».